vecchiotta parente, io godevo senza freno, quando un tratto una mattina arrivò la cocaina. L'ha portata in un gilet, l'ha venduta pure a me, 40.000 la bustina comperai la cocaina. Se la vedeva la mamma faceva un dramma e fu così che la misi lì in un vasetto usato di zucchero vanigliato. Ma qualcuno preparò una torta ed impastò latte, zucchero e farina con quel po' di cocaina. Alle 5 su da me vengono tutti per il tè, c'è la nonna col curato, suo nipote col cognato, una guardia di frontiera con la vecchia cameriera, mia sorella con due amici che li fuma le narici, anche loro più di me sanno.